La manifestazione è stata autorizzata perché all'inizio abbiamo avuto un po' dei problemi con la questura di Roma, che aveva manifestato l'intenzione di boicottare la manifestazione. Ma come siamo dentro un clima di repressione, per noi era solo una forma di repressione. Poi alla fine la manifestazione è stata autorizzata. Perfetto, invece come ci si arriva alla manifestazione? Tu prima in assemblea, partendo proprio dal decreto Salvini, dicevi un decreto che parla di immigrazione ma anche di sicurezza, che alla fine colpisce sia i migranti ma anche le realtà solidali, e insomma non colpisce solo i migranti, quindi ci si arriva un po' tutti insieme. Sì, si arriva un po' tutti insieme, e soprattutto a notare che nel mondo antagonista, nel mondo antirassista, i compagni, i militanti, attivisti ci sono. Però il messaggio che noi vogliamo lanciare è andare anche a aggregare quella parte della cittadinanza che magari non hanno fatto l'attivismo, ma a vedere un decreto fatto in quel modo, che va a colpire i parenti, i familiari, gli amici, se devono partecipare, perché qui stiamo parlando di una mancanza di libertà, ma mancanza della libertà non per solo i migranti. Dunque, noi stiamo cercando di fare una cosa diversa, che non è mai stato fatto in tutti i vari, diciamo, manifestazioni che noi abbiamo fatto antirassista, che noi abbiamo fatto sia a livello cittadina o anche a Roma. Questa volta stiamo cercando di costruire un momento un po' meticcia, un po' multirassiale, perché pensiamo che è ora che gli italiani capiscano che la libertà magari si passa attraverso l'immigrazione, e piano piano li stiamo perdendo anche tutti. Questo è il messaggio di fondo. Se tu vai a vedere il decreto Salvini, come è stato fatto, da una parte l'immigrazione. Io ho letto il decreto come è stato promulgato. Lui praticamente ha messo immigrazione, criminalità organizzata, beni sequestrati, tutto una forma di presupposto per dire che l'immigrazione fa parte della criminalità. Ma l'immigrazione come parola in sé non vuol dire criminalità. L'immigrazione in parola in sé vuol dire che uno che lascia un luogo dove è nato per andare a cercare una vita migliore altrove. E qui vediamo immigrazione, beni sequestrati, mafie, corruzione. Allora è grave. Allora ci stiamo chiedendo, noi siamo un paese, siamo dentro un paese che anche sta perdendo l'etica morale delle cose, sta cercando di mischiare tutte le cose, però non parla della parte positiva dell'immigrazione. Finché li sfruttiamo come lavoratori, nel lavoro grigio, lavoro sommerso, sottopagato, va bene, e noi lo stiamo vedendo adesso anche quella che riguarda il settore agricolo in Italia, al nord, al sud, all'est, all'ovest. I lavoratori africani agricoli che raccolgono la frutta che poi ci ritroviamo nei nostri supermercati e poi nelle nostre case, facciamo finta di niente. Però in che situazione ci sono? Malpagati, sfruttati al massimo, sono considerati non come esseri umani ma come degli schiavi. La prova è che solo l'altro ieri è morto un ragazzo, un lavoratore, 18 anni. Cosa faceva lì? Andava a raccogliere la frutta. Ma per cosa? Per interessi di aziende agricole, per i multinazionali e vari, e perde la vita. Questi fatti nessuno lo dice. Ma se questo, lo stesso ragazzo che è morto ieri, aveva magari violentato, lo vedevamo oggi su tutti i telegiornali: guarda, un immigrato ha violentato, ha fatto questo. Un messaggio di fondo è questo. Noi dobbiamo fare un salto di qualità anche per far vedere alla cittadinanza che attualmente la situazione deve cambiare. Ma lo deve cambiare solo partendo dal basso. E oltre a un movimento dal basso che arriverà a Roma il 15, voi avete anche chiesto un incontro al presidente della Camera Roberto Fico, che si è espresso noi contrariamente. Noi abbiamo avuto vari incontri. Il primo incontro l'abbiamo avuto con il ministro Di Maio, che è il ministro di lavoro e affari sociali. Nel mese di ottobre lui ci aveva ricevuto per parlare del caporalato, dove noi abbiamo specificato anche le problematiche legate al lavoro agricolo e soprattutto al lavoro dei braccianti, al lavoro bracciantile. Cosa che manca? Manca l'ispettore per fare vari controlli, manca i contratti che ne vengono rispettati, e lui ci ha promesso dei cambiamenti. Poi di là abbiamo avuto, dopo il Consiglio dei Ministri, abbiamo avuto il decreto con una parte dei senatori del Movimento 5 Stelle al Senato italiano. Il giorno che il decreto è passato al Senato, noi siamo andati a manifestare sotto il Senato e abbiamo questo incontro. Siamo stati ricevuti dal capogruppo del Senato, Patuanelli, con altri decine di senatori che non condividevano questo decreto. Poi di là è passato al Parlamento e il decreto è passato. Per quella che io nel mio intervento dicevo, non può essere solo una passeggiata. Un conto fare una manifestazione, portare le persone a fare delle passeggiate e poi finisce lì. Un conto essere nei tavoli per trattare, per discutere il cambiamento. Questa deve essere la procedura migliore. Noi siamo comunque attivisti, siamo dentro un movimento dei migranti e cerchiamo di sollecitare se c'è la possibilità di darti lo spazio, perché io l'incontro che abbiamo avuto nel Parlamento italiano, abbiamo capito che queste persone dell'immigrazione non capiscono nulla, vivono un mondo, per lui ti tolgo un permesso umanitario, ti metto questo, poi tu per averlo devi fare questo. È tutto semplice, ma non è così semplice, è molto complesso. Se uno fa l'antropologia va bene, uno fa l'avvocato va bene, poi io devo metterlo in pratica, perché lì non stiamo parlando degli oggetti, degli alberi, ma stiamo parlando delle persone. Allora, queste persone per fare un ricorso in tribunale hanno bisogno dei soldi, si hanno tolto il gratuito patrocino, non hanno soldi perché persone lavorano. Si parla di lavoro, ma si parla di lavoro un paese dove c'è il 42% della disoccupazione giovanile? Si parla di lavoro dove un paese fa fatica a decolare? Si parla di lavoro un paese dove esternalizza? Si parla di lavoro dove c'è un sistema di intermediazione, di appalti, di subappalti? Allora, qualcosa che non funziona. Allora, per quella che, al di là della giurisprudenza, al di là della legge dell'interpretazione che metterà ancora di difficoltà andrà a trovare lavoro, a trovare l'avvocato, andrà a trovare questo, che si entra ancora un meccanismo di sfruttamento, perché ci sono anche quelli che si sfruttano su questo business dell'immigrazione, allora noi chiediamo la regolarizzazione, basta, punto. Gli dà un permesso regolare a tutti quelli. Dice, io vi do un permesso di 5 anni, cercatevi un lavoro. Poi se devo rivedere il sistema di accoglienza, lo faccio nel secondo momento. Ma le persone che sono già integrate, sono qua da anni, da 5-6 anni, non li mette ancora in situazione di clandestinità. Per quella che noi anche tante volte con gli avvocati cerchiamo di portare le cose a livello delle vertenze. Però ci rendiamo conto che per fare delle vertenze su un tema come l'immigrazione è difficile, perché sono persone molto ricattate, molto deboli, e quando è così diventa difficile andare a una persona a dirgli va bene, io ti posso chiedere, facciamo tutta la pratica, va bene, ti do un permesso previsto dalla Costituzione, e se l'avvocato mi chiede 300 euro come lo pago? Dove trovo i soldi? Dunque per noi la regolarizzazione rimane un punto fondamentale.